molto più carine troverà. Puntata numero 2 di Firenze in vacanza, vizi e virtù dei fiorentini in ferie, il programma di Radio Big World che in questa torrida estate, che per fortuna fa crescere bene i pomodori e le zucchine, in questa torrida estate pillole freschissime di fiorentinità in vacanza per tutti quei provinciali che avranno da relazionarsi con i fiorentini, e perché sulla capitale prima o poi lì ci tocca di passare e fare bella figura. Magari vi autorizzano quello che altrimenti non vi autorizzerebbero. Con noi provinciali, perché io mi metto tra quelli che stanno dietro ai pomodori e le zucchine, c'è naturalmente fiorentina, fiorentinissima, Laura! Ciao, ciao a tutti! Laura, la curiosità sul mare continua, però già che abbiamo parlato del mare di Toscana, sarebbe bello oggi parlare del mare italiano in senso lato. I fiorentini mica tutti andranno al Nano Verde. E la domanda amletica direi che sarebbe questa: il mare che si fa fuori Toscana si fa al nord dell'Italia o si fa al sud? Sud, anche dove andresti? Quindi insomma fiorentini al Lido di Venezia non ce ne sono. Ma io non ci sono mai stata personalmente e ho girato, è un bel posto. Sono stata alle Cinque Terre, quindi se andiamo verso nord andiamo alle Cinque Terre, ma semplicemente perché andiamo in Versilia, allora proseguiamo e sforiamo, andiamo fuori regione. E magari moltissimi vanno alle Cinque Terre, quelli barcamuniti, perché la tengono a Bocca di Magra, che è più su della Versilia, e da lì partono e vanno alle Cinque Terre, perché insomma il mare è un po' più pulito, un po' più cristallino rispetto a quello della Versilia. Però generalmente si va al sud, perché si sa, insomma, il mare al sud ha tutto un altro sapore. La Puglia negli ultimi anni è esplosa. Non si parla di questo Salento come se fosse la nuova Mecca delle vacanze. Infatti lo è, lì ce ne trovi di fiorentini, perché il Salento ha divertimenti e allo stesso tempo mare pulito. E poi ci sono tantissime località di mare, perché si affaccia sia sull'Adriatico che sul Tirreno. Che sullo Ionio, anzi, scusa, e dunque c'è l'imbarazzo della scelta. Secondo me succederà per il Molise, che è una regione che non considera nessuno, la stessa cosa che è successa per la Puglia, che fino a 10 anni fa non la considerava nessuno. Guarda, ci scommettiamo, fra 10 anni un sacco di gente andrà in Molise al mare. E beh, oh, ragazzi, i pugliesi sono quelli che affollano la Bocconi, per cui quando tornano a casa mica sono strulli, quelli hanno messo su un bel business. Tra l'altro mi stupisco dei fiorentini in Salento, visto che mi viene detto che in Salento in molti posti praticamente pelano. Ma il fiorentino magari si informa, si fa la spesa a casa, ma... D'accordo. Cena con l'aperitivo. Poi lì le porzioni, sai, le porzioni al sud sono molto, molto abbondanti, quindi insomma se uno si organizza riesce anche a risparmiare. D'accordo, e allora rimaniamo al sud. Negli anni 80 andava tantissimo di moda di acquistare per esempio la seconda casa al sud, e in particolare in Calabria. Qui da noi molti lo fecero, ovviamente era la piccola borghesia di provincia, però avevano i denari per acquistarsi poi delle case che spesso e volentieri si sono rivelate anche delle truffe. Insomma, anche a Firenze ci fu l'esodo verso la Calabria? No, che io sappia no. Ma scusa, ma che senso ha? A parte, cioè, prima di arrivare, ma guarda, in Calabria, non lo so, la Salerno-Reggio Calabria è veramente infinita, io l'ho fatta di recente, non finisce mai. Ma chi te lo fa fare di comprare una casa in Calabria? Cioè, compratela più vicino. Se proprio vuoi andare in Calabria, vai in albergo. Cioè, ti fai 20 ore di macchina per poi avere una casa che devi pulire, mantenere? No, sono contrarissima. Io sono per la seconda casa a un'ora o due dalla prima casa. come fanno quelli al sud che abitano, che ne so, uno che abita a Catanzaro ha la casa a Marina di Catanzaro. Tantissimi al sud hanno la casa che è a, la casa al mare, quando in realtà la prima casa è a 10 minuti dalla spiaggia. Pensa. Non so, sarà che le case costano meno. Io sono di questa filosofia, la casa al mare deve essere raggiungibile bene, sfruttabile bene, non troppo lontana. Altrimenti te la compri a Pantelleria, prendi l'aereo e in un'ora e mezzo ci sei, ma se devi andare in Calabria è collegata malissimo. Quindi perché? Insomma, di nuovo i fiorentini che fanno i conti e calcolano tutta una serie di cose, è preferibile la casa a 2 ore da Firenze piuttosto che a 20. Poi qui i provinciali per tentare di fare i fiorentini, per tentare di fare gli esotici, abbiamo la casa in Calabria. D'accordo, Sicilia e Sardegna, le isole, le più grandi isole del Mediterraneo, ma lontanissime, in particolare la Sicilia. I fiorentini usano farsi un giro in Sicilia? Sì, io ho sempre adorato la Sicilia, più che la Sardegna. Vabbè, entrambe sono meravigliose. Il fiorentino medio secondo me va più in Sardegna, però sai che io in Sicilia, sulla spiaggia di Porto Palo di Capopassero, che è il comune più a sud d'Italia, ho incontrato la mia vicina di casa fiorentina. Quindi il fiorentino è sbuca come funghi dove meno te l'aspetti. Incredibile. Ma è la Sardegna, il fiorentino medio va più in Sardegna. Ma la Sardegna è carissima, c'è quella parte, la costa, come si chiama, c'è il Berlusca, e quello costa un sacco di soldi. Ma la Sardegna c'è anche la parte di Oristano, cioè te vai fra i pastori e ti imboschi, no? Con 2 euro mangi. La Sardegna si presta a tutte le tasche, è grande, c'ha un sacco di varietà. Ma poi sai che cos'ha la Sardegna? Se te a fine luglio non hai fissato le vacanze e decidi di partire last minute, magari in un villaggio, il 90% delle proposte sono in Sardegna. Non mi chiedere perché, però siccome ci sono passata te lo dico, forse perché è così piena di strutture che tutte non sono mai complete, allora agli ultimi sgoccioli mettono queste offerte. Quindi la Sardegna può essere veramente una meta low cost. Così a cazzotto, quindi sulla Costa Smeralda vanno i milanesi, uè, paga 50 euro, e poi il resto dei fiorentini si trovano a Lanusei o in posti di questo. Magari tipo. Però si svegliano presto, fanno un salto in mezzo ai milanesi, così possono dire che ci sono stati, e poi se ne tornano a dormire in provincia di Nuoro, nell'entroterra fra i pastori. E non dimentichiamoci che una meta abbastanza conosciuta è quella della Valle della Luna, non so bene in che provincia, e lì è pieno di fiorentini, è pieno anche di montevarchini, e lì effettivamente sono i... E di nudisti. E di nudisti. E si spende poco anche di vestiti, vedi, alla grande. Alla grande. Però devi stare attenta ai cani, perché alla Valle della Luna, siccome sono un po', c'è questa comunità di hippie, questi cani allo stato brado, insomma, sono un po', almeno per me che io ho paura dei cani, ne sta attento. Rigioco questa carta, ritengo. Si parla di Romagna, si parla che la Romagna in realtà è un pezzo di Toscana, anzi un bel pezzo lo è, per esempio Forlì, probabilmente non la costa, però insomma siamo vicini anche come modo di pensare. I fiorentini com'è che non vanno a Rimini, Riccione, Cattoliche sulla Riviera? Oppure ci vanno? Non ci vanno, te l'ho detto. Allora, se vogliono il mare bello non ci vanno, perché effettivamente quello non è mare bello. Lisci, no, ci possono andare per i servizi, per le strutture, perché sono anche più economiche, quindi dici, ma potrebbero andare lì che risparmiano. E però preferiscono la Versilia perché è più vicina, allora magari sì, costa di più, però la passeggiata c'è anche lì, tutta l'organizzazione. Oddio, l'organizzazione romagnola è impareggiabile, però il fiorentino non interessa. Forse, non lo so. È perché c'è da pagare, troppo organizzato, no. C'è da pagare. No, ma in realtà è economica la Romagna, solo che... Ma senti, te la mi ha conosciuto un fiorentino che va in vacanza in Romagna, io no. Ora ci penso. No. Io ora ci penso, ma potrebbe essere il motivo più profondo. Ma allora, così su due piedi non mi viene. Perché ecco, secondo me, se non vuole niente di particolare... Niente di nuovo, va in Toscana, per orgoglio toscano. Se deve uscire dalla Toscana, allora va al sud Italia, non va in Romagna. Quindi, cari provinciali, ricordatevi quando troverete un fiorentino che in vacanza siate stati in Versilia e avete fatto una capatina alle Cinque Terre. Ringraziamo Laura per questa nuova pillola di fiorentinità. Laura, grazie. Di niente, figuriamoci. Ringraziamo naturalmente i nostri ascoltatori che saranno già in viaggio verso Viareggio. Ringraziamo anche Radio Big World che pur in estate ci manda in onda. Olè!